1, 2, 3 stella. E allora dici. Peut-être là-bas un petit peu avant, mais bon. Pronto? Pronto, chi parla? Ascolta, Clara, guarda, fammi la gentilezza, guarda se sono in frequenza. Sì, sì, perfetto. E a che frequenza metto il comitato da camminare una batta all'altra? Ah, ma tu metti il canale, a tutti di noi frequenziamento. Che non io frequenziamento? Non io posso dare un frequenzimetro. No, non si può spegnere come gli altri. Allora metti il canale 10, a tutti di noi. Canale 10 non è il canale 10, il problema non ce n'è. Ho andato un WhatsApp a Pomponio, però forse non c'ha linea, non è di gioco. E tu sei impegnato con la birra, boh. Questo non te lo so dire. Non lo so, ma già lo vede, non ti preoccupare. Quando lo vede, vedi un po'. Comunque lascialo sul canale 10, non fa niente. Tanto il frequenziamento è comandato dal coso dei canali, capito? Zappa gatta, vabbè, mi scoccia però, vabbè, la radio così, capito? Ti scoccia, non si vede. Siamo sempre lì, sono radio vecchi, prima o poi ci lasciano a piedi, gente da fare. Ehi, vabbè, a piedi non mi lasciano perché basta staccare i fili da dentro, frequenzimetro non si vede più e c'è il canale, cosa me la frega. Sì, nel senso che a piedi, nel senso che si bloccano, capito? A me era successo sul 430, alla fine si erano bruciati gli ultimi due decimali. Avevo dovuto rimettere tutto il frequenzimetro nuovo, capito? Però è così. Devi farsi i contatti, sono venuto da Havana. Saldature fredde, lì sono tutti puntali, puntalini, spinette, capito? Ehi, ma infatti, magari battono due gocce di stagno, però bisogna vedere dove metterle. Io non me ne intendo, non apro, non mi interessa. Domani così andiamo lo stesso. Ognuno ha il lavoro suo, la scheda tutta intera, tutto circuito stampato, ma va tutto ripreso, capito? E c'erano tutte saldature fredde, tutte saldature già consumate. E lì tutte quelle spinette che arrivano al frequenzimetro partono da quel circuito stampato, quindi sicuramente c'è qualche saldatura tocca non tocca e si accende e si spegne o va a casino. Aspetta un attimo, passa tre fuori. Alleluia, mamma mia, come sto là, ripreso qua. Io lì la sento a Carlo, quando ci porta quella ci porta anche questa. Ehi, Massimiliano, lui mi chiami, tu sei in buoni rapporti con il mio, in realtà anche via, a manco che ci vuole trovare a posto. Lo sai cos'è qua, che scucciami, capito, nel senso che cioè la gente dove mandarlo ce l'ho, che cazzo ti costa più di spedizione gli altri, andare e tornare, guardare la gente costa 50 euro, sai, non ammala. Infatti non devi spedire niente, andare a bordo ci vogliono 5 euro di gasolio, quindi si va, si porta. E anche tu hai ragione, 5 euro di gasolio, sì, o quello che costa adesso, ma va a pagare a bordo e vuole 30 euro di gasolio, andato là, andato a balla. Non so che ti chiamo, si vedi. Che due giorni si vedi, ma a me poi mi sta tanto rubiato, sempre dei trio non ne vengo qui. Devo dare, devo fare un messaggio a Carlo, vedere. Ma guardate che come ha messo lui. Invece di messaggiare telefono, non ce l'hai il numero, lo chiami, è sempre molto disponibile. Lo chiami e dici come è messo. Secondo come è messo si portano tutte e due. Capito? Una mano lì te la do io. Me lo metto in macchina, io me lo porto a casa, Carlo lì puoi passare qua, se l'ho messo non se lo prende, lo porta. Cappa gappa. Mi sa che poi lo chiamo, dai, un po' più tardi lo citofono a vedere. Non c'è problema per quello, di se non ci vediamo. Sempre operazione, tanto c'è la coppia che aveva la macchina tua, me lo prendo e lo porto qui, chiamo a Carletto, lo faccio passare, se non glielo porto io non è un problema, su quello non ti preoccupare, però devi essere sicuro che ce l'ha ancora lui l'altro, se non l'ha già portato. Infatti per quello lo devo messaggiare, capito? Anche quando deve scendere, capito? Vabbè, quando non è una cosa urgentissima, nel senso che già c'ho altre radio, ma mi rompe proprio le balle lasciarlo così, capito? Adesso frequenti per esempio Gamminelli, mi scuso. Secondo me è proprio qualche filo, qualche falso contatto, non è altro, però quando non sai dove metterci le mani è inutile. Antonio già lo conosce il Galaxy, lo conosce molto bene, se riesci a telefonarle, ce l'hai il numero di Antonello, telefonalo, perché magari i messaggi non li vede, telefonalo e fallo squillare il telefono. Dammi 2 secondi che provo a sentirlo per cosa mi dici. Chiamalo, perché anch'io a volte mando i messaggi dopo 2 giorni, chiamalo, e sicuramente è intanato da che parte bevendo birra. Forse è impegnato, là. Fatto 3-4 squilli e poi è caduta lì. Vabbè, dunque se ha visto la chiamata già, ma l'altra volta mi ha richiamato lui, quindi non c'è problema. Da sotto? È la sopra. A te. Buonasera. Massimiliano, qui? Cosa? Che c'è il vipio con quel cazzo di pappagallo? È lo gioco, quando mi intende fa vedere se buona c'è la vita, pure. Beh, anche lui deve parlare, no? Lo prefetta, tutto a posto? Ciao Massimiliano, buonasera, ciao Claudio. Senti un attimino, ho montato ieri in fase di sperimentazione una mezz'onda della Freno. Guarda, sbircia lo strumento a vedere cosa, se ti dice qualcosa di nuovo. Sì, mi dice che da ieri poco più di 9 sei 9-10. Esagerato, adesso sto usando il Jopix con 8 watt, magari tu hai memorizzato il segnale con l'Uranus, boh. No, io non è Uranus, giovanotto. Silenzio, parla agnese, muto, lunga ben muto, si vuole. Allora, eri poco più di 9, adesso sei 9-10, ti ho detto. Eia, ti sto dicendo, l'Uranus ce l'ho io, sicuramente... hai memorizzato il mio segnale quando io stavo usando l'altra radio, questa esce un attimino un po' più forte, c'è 8 watt e quindi è probabile che sia quello, cosa dici? No, se forse hanno telefonato a Massimiliano. No, qua è 9-10 anche da me, ho già 9-10, 9-10, con l'Urano ci ho detto che arrivi 9-5, con questo arrivi 9-10. Eia, allora, sentiamo Massimiliano, come finisce il telefonare. E va bene, così piano piano sentiamo quelli un po' più lontani. Noi non siamo vicini, noi siamo abbastanza lontani, io non ti vedo, quindi mentre tu Massimiliano lo vedi, io a te non ti vedo, ed è un ottimo segnale quello che arriva qua. Già lo so, Carlo, se tu sei un'altra pace, io sono in fondo e tu sei in punta di sopra, quello già... Di quello ne siamo assolutamente certi. Ma soprattutto io non vedo Sassari perché c'è la vallata, capito? Anche se sono a 400 metri di altezza, non c'entra niente, non vedo Sassari. Quindi un ottimo segnale quello che arriva qua. C'è molta gente che non arriva a 9-10, liscio così, con 8 watt. Vediamo un po'. Sto cercando di far partire il portatile di un mio amico che quando ogni volta si muore le mani sono in golfa e poi mi tocca grattargli le rogne. Vabbè, no, ti arrivano benissimo, ti ripeto, quell'antenna nonostante sia un quarto d'onda funziona molto molto bene. Dai, meglio così. Sta tirando un po' di venticello fresco, dai, manco male, se no me ne esci di capo. Non c'è, non bisogna ancora 30 gradi, non pensi avvicinare i 20 gradi, no? 30 gradi ci sono qua. Vabbè, dai, meglio di niente, qua. E ti dirò, io ho qualche grado in meno anche, capito? Quindi a Sassari sicuramente ce ne saranno ancora 32. Probabile, vabbè, adesso io non ho modo di controllare, comunque. Già ho aperto delle finestre, sta girando una bella dieta, dai. Sì, qua faremo quella che è condizionata. C'è una differenza, cioè tu immaginati che fuori sono 32-30 gradi e dentro ne ho 23, fatti un gol. Leggi di manco proprio. Senza aria condizionata, è talmente coinvestata, talmente isolata, che c'è un fresco dentro allucinante. Meglio così, almeno risparmi, dai. Sì, alla grande. Alla grande. Cos'è che gli sei fasciato a Massimiliano? Che la gente su si è detto la cola, dai, del passaggio poco fa. No, c'è la frequenzimetro del Galaxy che si accende e si spegne, ma tipo albero natale, c'è qualche falso contatto a qualche parte. Probabile, probabile, sicuramente sì, vabbè, chissà quanti anni siamo alla radio. Ma infatti la giudizio su Radio Vici, prima o poi qualche problema ce lo dobbiamo sempre aspettare, no? Quindi non è liscio un problema. Chissà che non sa, vabbè, lasciamo perdere, sta sparando un'ascoltata. Figlio Baretto, io te la giudizio, ogni tanto falle qualche pulizia, falle un po' di pulizia al cornicione, lui non glielo vuole fare, ci arrangia. Riccio, dai, oh, yeah. Dai, aspettiamo che rientri, dai. Io sicuramente al telefono, capito? Sicuramente al telefono, KK. Se c'è la tua che tu, no? Oltre a te, Massimiliano, non si è sentito nessuno? Guarda, non lo so perché non ci sono entrato tutto il giorno. Ho sollevato il volume adesso perché le mie radio sono sempre accese. Ho sollevato il volume e ho sentito Massimiliano che stava provando. Per il resto, non saccio niente. Benvenuta. Oh, io. 18:34. Perché su Windows non cammina. Boh, vabbè, aspettiamo, dai. Ho ripreso, signore. Ehi, siamo qua. Allora? Dai, la porta a lui. Ma tu l'operazione si può fare domani, là? Se la lascio a te, se devi scendere in zona. O se no io la salgo domani, se la io, là. Io sono senza macchina, Massimi. Sono senza macchina. E in moto mi viene male domani. Me devo organizzare con Ilaria. Vabbè, non fa niente, là. Capito? Così è istantaneo, poi tra l'altro domani in Italia c'è anche una riunione, quindi non c'è modo che ora rientra per prendere la macchina. Quindi secondo me ti conviene mettertela in macchina quando esci al lavoro un attimino, ci vuole 5 minuti da lì, te la passi, bevete la birra e te ne vai. Acqua brioche, là. Allora, torniamo a Lubrefetta, amico mio. Vabbè, cosa hai combinato quindi? Sto sperimentando un'antenna, non era mia, me l'hanno prestata per fare questa prova. Ho messo la Venom mezz'onda, 5 metri e 30, dai. Buccia e tutto, quella con i tre radialini piccoli. La sto testando, tutto qua, dai. Allora, te lo posso dire la mia, senza offesa, Con quella piccolina che avevi prima, più o meno sei lì. Infatti siamo arrivati a questo risultato, dai. C'è da immaginarselo, non ci sono grandissime differenze. Allora, Lubrefe, allora se metti una 5 ottavi, allora la musica cambia, secondo me. Ma per una mezz'onda, tieniti quella che avevi prima. Meno vento, meno rompimento di balle. Gamassi, guarda che la differenza tra questa e quella della stessa marca, 5 ottavi sono 50 cm di tubo in più, boh. Però è un po' diversa, di ricezione e trasmissione pure. Può essere che sia come dici tu, però a lato pratico la struttura è quella, non so che dirti, guarda, infatti abbiamo voluto fare questo esperimento per quello. E ciccia. Tu cosa ne pensi? Ma io il mio apparecchio l'ho già dato ieri, gli ho detto la differenza che c'è. Io da 9,5 a 9,10, che poi è un problema anche di potenza, non rispenderei quei soldi, capito? Mi terrei quella lì, perché va benissimo. Quella boom è piazzata così com'è, va alla grande, quindi. Ma ascolta, ma fare invece tipo una, quella che ne ha smontato un attalino dal tetto, quella andrebbe bene, l'antenna è leggera, è una 5 ottavi, quella è molto superiore alla Veno. Massimo, hai un bel ragione, cioè il radiale è troppo grande, capito? Non ne voglio mettere roba del genere per tutta una serie di motivi. E ciccia, capito? Vabbè, i radiali ve li fai dei centimetri. Si compare già Roma Nova e comincia a tagliare così, eh. Ah, vabbè, li accorsi, capito? Oui. No, ci avevo già pensato, ma non voglio mettere... poi si cano che cazzo ci sono gabbiani, cornacchie, cazzo, beccacce, piccioni, vedi tutto. E poi mi ne va pane in terra. Batti la quaglia, c'è lì. Ma una cosa, metti del vischio, cazzo, nel radiale, così te ne maniere un burro. E niente, è tutto qua, dai, adesso vedo, dai, al limite, se proprio devo mettere, metto questa, dai, cioè questa qua non è la mia, è di Marco Condor, al limite, poca spesa, e ne metto la gemella di questa, dai, si la piglia in luce. Arrivo subito, ma infatti, metti quello o ti tira tu, arrivo. Ascolta, ma tu... in ricezione, secondo te hai migliorato qualcosa? Secondo te? Dai, qualcosina in più, poi vabbè, ma è molto relativo, cioè io sto andando praticamente così a sensazione, perché poi dipende anche un po' anche dalla preparazione, cioè gli altri segnali più o meno sono quelli, dai, sicuramente ha guadagnato un qualcosina, ma... veramente qualcosa di poco percettibile, ok? Guarda, Roberto, io sto usando sempre il Galaxy con Turner per fare salotto così, i watt sono sempre quelli, secondo te ha cambiato qualcosa da prima adesso? Più o meno siamo lì, ma si vede, poi vabbè, adesso lo strumentino è quello che è. Vediamo un po', fare un passaggio a vedere. Vedi un po', 1, 2, 3, 4. Ehi, dai, con l'altro eri 9 pieno e qua sei un cc di più, dai, ma poca roba. Guarda, io sono convinto, già, se tu quell'altra antenna che hai la sollevi, ma lo dico tanto, un metro, un altro metro, più o meno si equivalgono. Ehi, infatti con l'altro palo la boomerang ci hanno tirato parecchio su, è un paio di 4 metri. Adesso questa qua è montata su un altro tubo che è un po' più corto, 2,70 m, dai. Non volevo tirarla su troppo, tanto è tutta una cosa provvisoria. Io ce l'ho lungo, eh. Ascolta, già, io so dove andare a rubare una di quella Game Master. Pure c'ho il fucile a pompa, però. Io avevo già arrivato, chi so. Ma, lascia perdere. C'è anche una qua in zona, mio. Double F. Se ne hai gana, andiamo, ne la furemo e te la abbiate. Ciao Natalia, buonasera. Ciao Gianni, ciao Massimiliano. Io gli ho proposto anche che gli volevo fare un dipolo a questo profeta. E lui è sempre sul chi va là. Io gli ho detto, te lo metti sotto l'antenna così ne hai due, non ne spendi i soldi. Che fate un dipolo, basta provarlo anche, capito, vedere com'è la situazione. Ma è quell'antenna vecchia che ne è sceso tu, Natali, che fine ha fatto? Oh, che ne farà da pezzi, tutta aggrimmata. Lui non ne valeva la pena, se me ne è sceso il cavo nero, lo sa cosa vuol dire? Ce l'ho dovuto buttare il cavo, il 213, perché non ha già visto le fotografie Gianni, se ti dico bugia. Il PL verde, era verde il PL. Cazzo, me ne ci darà bocca la di Rubiele, chissà la vita, se frasigato, brutto. Ascolta Natalì, ma tu un dipolo in verticale non glielo puoi costruire? Io glielo ho detto, ti faccio un dipolo a voi invertita per le bande di su e così puoi fare anche di ex oltre che ascoltare. Perché io ce l'avevo nelle bande di su, avevo fatto il dipolo a V invertita, roba di DX mi facevo da campagna. Invece di usare la verticale usavo il dipolo. Sì, vabbè, ma lui serve per chiacchierare così, dai, lui non è una fottinuta delle V invertite. È già invertito lui, ho convertito. È omnidirezionale, mi, quello a V invertita, Massimiliano. Non è in orizzontale. È a V invertita ed è omnidirezionale. Il dipolo così. Quindi funziona come una verticale, si può dire. Vabbè, perché non te lo fai fare, oh, lo brefè? Vale andando, lo costruisce Natalino, quello tanto è a costo zero, me fa tutto Natalino, te la fa lui, la provi, non costa niente provarla, se poi ti va bene te la lasci, se non ti va bene la vuoi. Non è deve smontare manco l'antenna, prima di piazzare quella boomerang, tu metti una corda doppia, così da terra ce lo sali, ce lo scendi, come vuoi fai col dipolo, con l'alta bandiera, si salta rasura. Vabbè, l'alta bandiera, va, non lo blocco il cavolo, dura, dai. Oh, yeah. Vabbè, si potrebbe anche fare una prova, dai. Non sto escludendo la cosa a priori, però meno cosa c'è, meno cosa si vede, meglio è, capito? Non voglio che magari qualcuno, cazzo, si gira stravagante e gli iniziano per le scatole, capito? A me non si vede niente, mica, sembra un tirante dell'antenna. E poi, Natalino, te l'ho detto, c'è cioè, fa l'altra bandiera pure. Oh, yeah. E allora io so che è golosone il profeta. Quando mai, sono due pezzi di filo elettrico mio, oh, già. Provare, non è per credervi. Io me l'ho fatto, in orizzontale però, capito? Non è che non va male. Non c'ha stazionari, fino a 29 mega se stazionari non ne ha. E che giustamente quando tu metti un dipolo in orizzontale i segnali sono più bassi, capito? Però come te lo fa Natalino, come che sia in verticale? Io me ne ho fatto uno in orizzontale, Massimiliano. Voglio vedere se mi ascolti, aspetta un attimo che l'attacco. Attacco, lo adesso con i occhi, capito Gianni Robloffè? Guarda, io adesso ti faccio vedere il mio dipolo, adesso io esco col dipolo, aspetta Fai. Sono tornato. Aspetta che c'è Massimiliano che mi vuole far sentire il suo dipolo da cornicione, dai. No, già, ma non mi sentivi? Non ho sentito niente, adesso ti sento. No, adesso non sono col dipolo. Ma qui io ti ho sentito, Massimiliano. È proprio abbiamo già fatto una rivisetta qua. E come mai, voglio sostituire? Molto cazzo, ma meno male che c'ho bisogno. Tu rimani seduto al cielo. Natalì. Eia. Natalì non arriva qua. Natalì, qua sei oltre 9:10, vabbè, ma siamo attaccati. Adesso anche Massimiliano vuole provare a smanettare col dipolo. Esita un attimino. Guarda, Rubro, qua è il polo, guarda un po' in orizzontale. Santiago 5 oscillante qua, Massimiliano. Vabbè, però tu se mi stai ascoltando in verticale, io sto scendendo in orizzontale. Non da molto, Venga, Santiago 5 e 6, dai. Ma quindi vedi che, ecco. Però vedi, per esempio, come ti volevo dire, magari da te arrivo 5, magari da parte sono più forte della verticale. Poi questo qua è puntato, vedo verso, diciamo, Platamola e vedo verso Monteoro. Ho capito. Aspetta che rilancio Natalino, così vedi se riesci a sentirlo. Avanti Natalino. Io non lo sento Natalino. Non ti sente Natalino, Massimiliano non ti sente. Marco, io lo sento. Ma anche di polo in divina, sotto terra o in nata a Missuria? Vabbè, mi state parlando addosso. Oh, yeah. Comunque, non vi sentite, eh? E anche Claudio ha... forse non riesce a sentire Natalino, giusto Cra? No, per niente, per nulla. Quindi Natalino, anche Claudio ti sente con lo... col dipolo invertito. Oh, non bluffe, non ridere. Non bluffe. Gianni. Sta parlando Natalino. Ma io Natalino, Luca del Duto, non serve un cazzo sul dipolo, addio. Ma non è per qua, è un dipolo 20, 40 e 80. E allora cosa vuoi? Lo stavo provando, invece si usciva. Ehi, magari, ebbene, Gianni lo sente per forza perché è un passo. Io se passo con la verticale multibanda mi senti lo stesso, eppure non è per qua, no. Però sei in verticale, non in orizzontale. Si conferma, confermandosi. Hai capito già come funziona? No, secondo me Gianni si è buttato dalla finestra. Gianni! Se sta parlando Natalino, no, gli arriva più forte lui. Fa bene Deliso. Non tengo un dei. No, lo sento la coppia Gianni. Ehi, sono qua, sono qua. Ehi, Natalino, è 20-40-80, non è radia qua, magari, capito? È troppo lungo, non... è un dipolo troppo lungo per qua, poi in orizzontale col contrappeso, insomma, è solo per ascoltare di là. Per ascoltare e parlare, quello vi va bene lì. Tu pensa che non ho stazionarie per qua, mi avrò 1,3 di stazionarie, però no, non irradia qui. No, Natalino, io me ne ho già fatto uno, non ne avevo mai fatto, me ne ho fatto uno per la, diciamo, per gli 11 metri, allora fa da 26 quasi fino a 30, cazzo, non c'ha un filo di stazionale da nessuna parte, non si muove l'ago. Lo so, questo è lungo, capito, più di un'onda qua, E poi bisogna vedere anche dove è puntato, perché questo è orizzontale, capito? Anche il mio è orizzontale, capito? Il mio è orizzontale. Adesso voglio vedere se tu mi ascolti con l'orizzontale. Adesso vedi. Guarda Natale, mi senti? Ehi, che ti sento! Ma se ormai vanno, ma te sei geniale, in realtà. Tu sei su che cosa qua? Cappa. Vedi. Il mio è basso anche come dipolo, a me mi serve per ascoltare, capito? Magari ascolti bene nelle HF, ma qua non ascolti. Poi di biglio di bianco sicuramente, e paghisso che non mi accogli. Anche questo passo a livello di, cioè da tempo io con le mani arrivo a prenderlo nell'alga, si può comunque di un capito. Va bene, là, che okay, lo ci sei. Sì, sono qua, ragazzi, ogni tanto per questioni di famiglia qua, per necessità mi devo spostare, dai. Ah, pensavo che andate in bagno. No, assistenza. Va bene. Comunque, per farti capire, Lubrefe, Vito, è in orizzontale, eppure arrivi da tutte le parti, leggermente più bassino, però farlo alla fine sono una cazzata, nel senso che sono due pezzi di virumi. E io non sono riuscito a prendere il coso, il capo che avevo messo nella carrucola, se no me l'avrei issato uno per qua, capito? Di quelli a V invertita. Purtroppo mi è andata male, là. Se no c'è la carrucola su, sopra il palo. Sì, vabbè, un domani quello te lo puoi fare. Capito. No, questo l'ho fatto tutto con il cavo RG58, senza cavo elettrico. No, questo è col cavo elettrico, c'è il contrappeso, insomma. L'ha visto un amico, ha detto, cazzo, questa è roba professionale. E allora cosa puniva una cosa così? Beh, adesso non ho approfondito bene la cosa, ma chi ci ho messo di virus? Mettiamo in verticale o su serie, in sostanza? Scusate la domanda stupida. E omnidirezionali prende da tutte le parti, invece quelli in orizzontale prendono fronte e retro il segnale massimo, poi ai fianchi ricevi di meno. Quindi, allora, in sostanza, cioè io piglio un pezzo di perdizio, no, adesso, fatta così alla Carlona, prendo alcune verghe di PVC, di quelle tipo elettriche, no, di quelle che ho sbagliato con diametro diverso. Praticamente mi voto, la faccio lunga un tot, prendo due pezzi di filo, una sopra, una sotto, e c'ho l'antenna, secondo la testa vostra, no? E allora, perché la Game Master cos'è? La Game Master è un dipolo, mi bello bene. Ma non è accrocchiata così, Natali, dai. No, è un dipolo verticale. La Game Master, cosa ti credi che sia? Alimentato al centro. Però è un dipolo verticale. Solo che io te la volevo fare a V invertita. Te la volevo fare. E c'è una V invertita. E sembrano i tiranti dell'antenna. Però tranquillo che metti da tutte le parti col dipolo. Vabbè, dai. Quando ne avrò un po' di gana mi faccio, smanetto qua su internet e mi faccio appena appena di cultura, dai. Cazzo, cosa c'entra la cultura? Se ti aggiungi il tiro bozzio non avrei bisogno di farti la cultura, no? Oppure guarda, dipolo a V invertita per gli 11 metri, scrivi quello e ti dice com'è fatto. Ehi, antenna mi, è un'antenna mi. Già lo so, Anzi, ma cosa mi avete pigliato? Oh, lo so, è che adesso la domanda banale e spontanea, cazzo, ma si chiama che c'è cosa di invece orizzontale metto verticale, fatta così, semplice, dovrebbe funzionare uguale, no? Giusto? E certo che funziona. In poche parole mie, Natali, è un dipolo verticale, non è un V invertita. Lui vorrebbe un dipolo in verticale. E allora si mette in mano 160 euro e si compra la Game Master. E si può fare pure un dipolo con la canna da pesca, volendo. E anche. Tanto è come la Game Master. Va, troppa brutto, va. Lascio questa e il problema non si pone. E quindi no, poca voglia ne ho, me. Ma io c'ho il cornicione di lusso. Avrà anche il cornicione di lusso, non si vede, però poca voglia in questo periodo, dai. Ma scusa un attimo, Natalino te lo vuole fare. Provalo, provare non costa niente. Poi tanto un dipolo, o per una cosa o per l'altra serve sempre. Cazzo, non ti domandate lui da me, ci sono due metri di vino. Te lo prepara lui, lo provi. Se vedi che va bene te lo lasci, se vedi che non va bene me lo togli. Cazzo, non è che ti sta dicendo chissà che cosa. Sono due metri, se vuoi te lo do io il filo elettrico. Da altro vuoi, da 4, da 1,5, da 2, da 1, da altro vuoi. E sono due pezzi di filo solo. Un attimo che arrivo subito. Da 2,5 va bene. Io ce l'ho il filo, se lo vuoi te lo do. Quanto ne vuoi? 10 metri. No, Massimiliano, dai, rimango tradizionalista, al limite, boh, un esperimento si può fare, magari, come sta dicendo Natalino, faccio una prova, lo piazzo, se da quello mi piace rimo con tutto, capito? No, da quel punto di vista lì il problema non ce ne sono. E non voglio mettere troppa roba, mi capito? Anche se è poco visibile, tutto che si vuoi, meno roba c'è, meglio è, dai. Quello quando lo piatti non neanche si vede di meno dell'antenna che c'hai tu, di meno si vede. Ma se glielo sto dicendo, che non si vede nulla. Io adesso a mia moglie dico di stendere i panni nel dipolo, perché è come uno stenditoio questo. Se te lo so con i zenni, va bene, dai, comunque. Vabbè, lui non è che può smanettare più di tanto, così è. Ehi, guarda, adesso ho voluto fare questa prova giusto perché Marco mi ha chiesto la cortesia, sennò avrei lasciato tutto com'era, lì. È che volevo, ero curioso anch'io di vedere queste eclatanti differenze, e invece poi ti ripeto, niente eccezionale, dai. Per me le differenze le vedi con la 5 ottavi, perché con un quarto d'onda non le vedi, pure, per me. Questa è mezz'onda, ma se non è un quarto d'onda. Ad addirittura mezz'onda, quindi fatelo conto, una 5/8 cambia totalmente la ricezione. Vero è Natalino? Mi pare ovvio, no? Poi c'è differenza tra 5/8 e 5/8, perché ci sono quelle che sono rumorose e ti danno sempre QRM, chi sa, per esempio vibragio è silenziosissima, sento la propagazione, quelli bassi li sento ugualmente, prima no, prima se non arrivi al manco Santiago 8 non ti sentivo, perché mi dava Santiago 7 fisso di QRM, quella che avevo prima. Perché lui ha piazzato quella lì, capito? Quindi non si accorge molto della differenza. E poi mezz'onda trasmette e riceve di meno della 5/8, capito? Quando uno ha la 5/8 allora si accorge che è diversa. Guarda, lui mi arriva qua già 9/10 con quella lì. Se lui mette una 5/8 io sono sicuro che lui qua arriva almeno 9/20, almeno. Sì, infatti, e se ti metti la 5/8 è più longa. E va bene Natale, io per esempio ho sia la Mantova e attaccato c'ho la Stella, che poi alla fine è una Sirio, quella 2016, quella con 8 radiali. Quella lì è alta 6 metri e 15, ok? E invece la Mantova è 7 metri e ti dico che c'hanno pochissima differenza. E allora la Mantova è 1,5 metri più alta della Stella. Ehi, perché la Mantova c'ha meno bobina, capito? La Stella vuol dire gli hanno messo più avvolgimento, gli hanno fatto l'induttanza più lunga e quindi risulta lo stilo centrale più basso, capito? Però rende di più la Mantova. C'è una portante, raga, qua. E dove? Qua è 9/10. Ma io la sento. Voi avete sentito la portante? Cazzo, c'è una portante, non avevo una portante 9/10. Io non l'avevo, vado a segnare a 2. Negativo, qua c'è il QRM a 3. E qua c'è una portante 9/10, dunque la passate tutti. Ah, io non ne registro portante. Adesso QRM non ne ho, è portante, non ne registro CLA. Propagazione CLA. Non c'è propagazione. Se uno la provendi, che provendi, non è propagazione. Comunque, se lascia il favore pure a me, 9/10, comunque mi sento, non c'è problema. No, non lo so, qua ti ripeto CLA. Meno male che col rumoraccio se n'è andato, un attimo mi squilla. Gappa. Ehi, adesso il QRM si è abbassato a 1, ogni tanto sale da 1 a 3, ma qua nessuna portante registrata, sicuramente dalle tue parti di qua. Sì, dalle mie parti, io anche se la Sassari la registro stesso la portante. Allora che sciogo a San Camillo. Gappa. Ma vabbè, comunque già mi sento lo stesso, non c'è problema. E infatti, cosa? Oh signor, non gli ho messo manco il PL centrale, là, senza PL l'ho fatto il dipolo, cazzo, una belva, perché adesso quando avrò la possibilità di poter ascoltare quelle altre bande, allora mi renderò conto che è così. No, ce ne vuole PL, tutto diretto, io lo stesso. Quello che ho diretto senza PL, quello che si mette lo stesso, diretto senza PL. Saldato, quello caldo e quello freddo, basta, diretto. Ho già, manco PL, vicino, saldato il blu. E anche io gli ho saldato il freddo e il caldo. Mancava la vedete la portata. Io ho Santiago 2 di QRM. Non è registro. Ma io non penso che le puoi andare a portante. A me lo dico. No, mi sento lo stesso, comunque non c'è problema. Ma non sarà in orizzontale, sta mettendo la portante, no? Ed è per quello che non la registriamo. Comunque c'è la portante, già si vede qua, non c'è problema. Allora è in orizzontale puntata verso di te. No, mi sento, non è che... No, cioè, voi arrivate più forte, ma già c'era portante. Se avete buttato il culo, avete fatto meglio. Invece vi già vi ho 4 gatti, fa vita, ne vuoi pure mica pure importante. Ma ero profeta. Ehi, roba. Ho mandato... Ho visto un video da... su Facebook che ha postato un'amica e c'è questo ragazzo che praticamente sta facendo parapendio e praticamente gli si affianca questo condor e gli si cala sui piedi, che è allucinante, bellissimo. Quello era ratapignata, era ratapignata che sicuramente stava facendo qualche escursione, capito? Non sapeva dove atterrare, è atterrato sopra i piedi quella ragazza. E allora, è un ratapignara quello, starà ridendo sotto i baffi adesso, cosa ti credi? Entra, malefico. Non entrano. Sempre sempre in agguato, sempre adesso che le sono le 7:10 e stava pranzando adesso. E allora se ne sarà leccando i baffi questo combo, boh boh. Io lascerò fare Natalini, io sei viva, lui è abituato a pranzare a quest'ora, noi ceniamo invece lui pranza, noi pranziamo e lui fa colazione, è tutto fatto allo contrario. Vai Massimiliano, hai finito di telefonare, vai tu già, vai. Sta facendo l'installazione di Windows, non è mai che si è impallato. Oh, quando mai? Adesso vediamo un po' se sta girando il disco di installazione DVD. Se no mi tocca rifare tutto all'inizio. Bacari dai. Oh, ma perché cosa stai facendo? Qualche lavoro a qualche computer? Un amico mi ha chiesto di mettergli a posto il portatile che ce l'aveva incasinato e adesso sto formattando tutto, gli sto installando il sistema operativo nuovo, dai. Ho capito. Quindi non è il tuo il computer, eh? Stai facendo una cortesia a questo amico tuo, eh? A voglia, adesso la portatile la vedo anche io, Santiago 9. Perché sta iniziando ad attaccare, a pompare, capito? Santiago 8 qua. Avete visto che c'era portante, perché quando era liscio non la sentivate. Adesso sta iniziando a dare vatti, comunque passate lo stesso, vi sento lo stesso. Vi sento lo stesso, Gambio. Dai, faccio ripartire Windows un attimino, un minutino di bianco e poi vediamo cosa succede, dai. Ehi, già, ti sento. Anche se c'è la portante, anche se è aumentata la potenza, ti sento lo stesso, non c'è problema. Mi sento anche a Natalino. Se non ti è proprio importante, intanto non stai facendo niente, sento lo stesso. Vuol dire sei debole. Aumenta. No, che se non si ricuda la faccia. Se non faccio a fare il beggio Natalino, a futtibini, tanto vi sento lo stesso, non problem, voi sentite a me, quindi non c'è problema, Massimiliano Bulldozer, cambio. Aumenta ancora, però che stai facendo queste figure, cazzo, ma ormai non vuoi abbordante e ti baciano i tutti. È un pollo. Se non aumenta Natalino, cosa vuoi ti faccio? Non ci prendiamo gusto. Avanti già, riprendi, dai, ignoratelo, intanto da 2:08 qua è 9:10, no, non vi fa niente. Cosa vuoi ti volti? Cazzo via. Ma io non lo so, buh. E io sto uscendo con 4 watt, non ho niente da attaccare perché io non ne ho mai usato e mai ne userò di roba da attaccare. Figurati, se passo con 4 watt vuol dire sta facendo una figura del cavolo proprio. Ma infatti sto facendo una figura di cavolo, perché vi sento perfettamente. No, non c'è problema, arrivate perfettamente bene. Vai Gianni. Venga, aspetta, mi assento un paio di minuti che sto cercando di fare partire il disco di avvio di Windows, dai, se no non è poco bene, che glielo devo restituire. Eia, va bene che va bene, ultimo per la truppa, fai partire il computer, già siamo qua, vai Natali. E sicuramente Gianni ha fatto lo sbaglio di toccare il tasto quando gli ha detto di toccare il tasto. Non lo devi toccare, se no ti si blocca tutto. Se vuoi ti do una chiavetta che lo installi in 5 minuti. Vuol dire che vabbè, ce lo sta. Ma cosa l'hai riformattato già il computer? Ega. No, è che probabilmente il DVD dove c'è Windows 7 che un po' consumato, e quindi ogni tanto si intrippa, là, e vediamo di riuscire a farlo ripartire. Oh, non è piazzare neanche Windows 7 che ti si blocca. Gli ho dovuto piazzare Windows 10 per forza a mia moglie, perché non danno più aggiornamenti, non danno più un tubo, e Windows 7 scordatelo. Vabbè, ma se lui... Ma perché cosa stai piazzando Windows 7 già? Ega, no, da me funziona benissimo, ce l'ho sul fisso grande e sul portatilino che ho. È stabile, poi vabbè, non ci sono più aggiornamenti, ma per quello che devo fare io basta e avanza, figurati tu. No, il 10 è pesantissimo. No, non ne mettono, lascio quello che c'è. Ed è un bijou, dai. E adesso che ce l'hai piazzato, come nello studio non riesci più a piazzarlo, perché è successo a me con quello di mia moglie che aveva Windows 7. Ma se va bene, cosa, se funziona ti conviene lasciare quello lì. Non ti ne va di piazza, non hai compreso. Non te ne fa piazzare addirittura, cioè una volta che fai la formattazione e vai a reinstallarlo, non te lo fa reinstallare, perché? No, Windows 7 no. Cazzo, c'è già Windows 11. Yes. Figurati. Io ho piazzato il 10 a mia moglie perché il 7 non me l'ha fatto piazzare. Capito. No, pensavo che disinstallandolo, poi installandolo te lo faceva installare di nuovo, capito? No, perché quando tu lo formatti pure gli aggiornamenti, capito? E come non ne danno? Non te ne vai di piazza. Capito ti ho, vabbè, e allora, se non te ne fate di assaggia, non sei stai a guindare dai vedo. Attento Massimiliano. Vabbè, telefono Massimiliano, Natalia. Ho mangiato, è perché non capisco. Mangia, che t'ha mangia. Ma io perfetto, allora hai questo cipetto di computer. Aspetta Claudio, che se sto al baracchino mi viene un po' male, adesso devo far ripartire tutto, dai. Infatti, tanto Natalino sicuramente sta mangiando, se sono qua. No, è venuta mia moglie, è arrivata mia moglie. Gappa. Eppure voglio vedere se ci riesce a piazzarlo Windows 7. Sicuramente già ce la fa installare. Non lo saccio. Cosa mi ha fatto a me Windows 7? Il tuo non me l'ha fatto installare? No. Vedi? Sicuramente, ma perché così? Cioè, talmente, ma è complicato come installazione, oppure così. No, è fuori, è scaduto, mi non ne danno più e quindi no, assolutamente no, non te lo fa installare. Davvero? Ci sei, lei sta, te l'ha fatto installare già, no? Già lo installo, non vi preoccupate, un po' di pazienza ci vuole. Davvero? Vino, ciao Luca, buonasera. Già l'installa, a frutto e dente. Vai, macinità, siamo importante, ma no, è misura, no, che va, mi sento tutti lo stesso, ci sentiamo lo stesso. Adesso c'è anche qua, Santiago Sci. Ciao, Lubrofe, Luca da questa parte. Cos'è, Santiago Sci a te ti arriva? Otto arriva a loro. E a me adesso sono 9:20. Ai. Sì, qui è poco più di 5, ma niente di particolare, là. Lubrefe, mi vuoi male proprio. Ehi, aspetta, mi sto soffrando le portate da una semina, ma tieni di pazienza. Vabbè, ma io lo mi chiamo Luca, capito? Dai, così è, aspetta un attimino. Intanto lui è più grande di me, è più feo di me. Ma Luca, ma è come? C'è uno e l'altro. Ma che più male adesso? Vabbè, un anno mi pare, 2 anni, non lo sacci. Quanto ne hai tu, 46? 7. Allora c'è con te Luca. Cava brioche, va bene. Va bene, dai. Propagazione 45, non venne. No, c'era sigaretta gradualmente, stagia, ma arrivava a basso. L'altro giorno già arrivavano forte. I più piccoli arrivavano per 20. Cava, comunque te l'ho detto, ho sentito a Mastro Pomponio. E niente, dai. Io l'avvicino che lui sa già dove fare. Sì, beh, lui quella radio la conosce, no? È che a dirti porta a me, non so come gli ha attaccato il virus, non lo so, non ne ho mai fatto di quelle cose. Quelle poche cose so fare, le so fare su queste qua e basta, ma proprio poche. Ognuno deve fare il suo, KK. Avanti Natalino. E ieri Natalino se la mangia niente sicuramente. No, è arrivata Concetta è arrivata. Ah, e allora starà sbaciucchiando. Non lo so. Sto mettendo dei filtrini sotto l'alimentatore perché sennò mi graffia il piano, KK. No, io i filtrini li munivo quando mi fumavo il cannone, capito? Sì, sopra il gadrini, bubuni. No. Io non c'ho niente uno sopra l'altro, perché sono i piani, però c'è l'alimentatore che è in una... nel piano del tavolo, e capito? Se me lo graffia mi toglie la... trasparente, poi tocca il veneziano, allora gli ho messo i filtrini sotto. Capra brioche, e quindi l'ubrefetta è andato con Vito Bortatile, così, a far rendise. E si conferma, confermandosi. Va bene, ok, il frequentino è tra 22, 23, 23, 9, 23, 7, 22, 07. Il numero è dendida, ma non è niente, non ci miglia, è... hai visto che c'è quella fascia bianca, quella lì, è quella che aggancia poi dietro il coso del commutatore dei canali, quella lì è, ovvero che il filo che si è attaccato tocca o tocca, capite? No, per me non è da lì, claro. C'è in poche parole dalla media frequenza a parte un filo a due, una massa e un altro cavo. C'è lo spirottino di quelli che tu schiacci la farina e lo tiri su e si stacca, mi capisci, come quello per staccare nella colonnina, là, senza dissaldare niente. E c'è quella farina che dalla piastra gioca, per me è proprio quello, tocca e non tocca, sicuramente qualche saldatura che non tocca sulla piastra. Quello è sotto, c'è due puntali che scendono sotto, e sotto il circuito stampato sono saldati. E allora è quello lì, saldatura fredda, bisogna staccare quello lì e risaldare e mettere a stagno il circuito stampato. Io si arrangia a coso dell'apporto domani, no, di sera, faccio un salto, gliela metto in macchina, dopo la metto in macchina, la sera gliela avvicino là. E Sì, intanto lui usa il carnello, non è che usa il saldatore. E io lo gioco. Allora, e qui abbassare il carnello, non usciamo del tappuso. Ah, deve fare solo quello, poi il resto è già tutto a posto. E si conferma, conferma. Cava, cava. Avanti, lo prefero. È affarrato, dici. Prende un computer, ha detto. Ma dica. Non ce ne gioco, dica. Ma sta riparando il computer o cosa ne fai? Sta installando Windows 7. Ah, vabbè, no. Passo, fate il bicchio. Bene, spagnolo, mia, intendi? E adesso, altri 10 minuti, si apre la propagazione, però io adesso fra 10 minuti vado e mi recupero la mia figlia. Cosa, Massimo? Ha detto che fra 5 minuti, 10 Massimo, vado e mi recupero la gaglietta. Però, beh, non parlare. Tu, magari ha i punti con gli amiche sue, non avrai come se la sgabuzzata. No, ma poi c'è finanzia. Sì, ancora no, da. Sì, ancora no. Quanti anni ha? 12? 13, cla. E io dove ho già avuto? A 14 anni già. Adios. Non ti fidare, Massimiliano. Infatti, mi fa ragione il Natalino. Da voi ti suoniamo un po' con la chitarra, burro, va. E gli altri ragionato ieri non la pure la chitarra, sì. Ma c'è l'albero di noci qua di fronte, mia, lo sai. Ti sono una matracca. Massimiliano, tu digli subito di fare il gioco di Cristo. Ma già mi vedi, sì. Ah, no, cioè, ti vedi. Quando ti vedi, dici, ma tutto qui, sì. Già usai, è già fuori scritto, no? Cazzo, se ci rubi la mia vasca è più grosso di te. Allora sì che sono dolori. C'è quell'animale con due canne pure, me la bacio. Ah, ma sì, vero mio, fa kickbox, così ci chiama. Vabbè, ma con un roccio un poco da fa kickbox, va. Ah, ho detto, cazzo, ti mette la dittina sopra la testa, mi mette. Io sono quasi una 70, sono calato, ma... Rubi di Nata non capo di buoni. Però poco rubi di Nata la faccia. Ah, che ti tocca la pancia. E vabbè, qualche maniera ci organizziamo qua. Ehi, basta fare la gabbiola e pigliare la confiata. Tanto, ma devi sapere 15-16 anni. E la buon filmato di male dei beati. No, fottiamo così, no, Massimiliano. Fiducia. Fiducia per fiducia. Io l'aria gli ho dato tutto quello che necessitava, però mi ha dato massima fiducia. Massima, ma dico massima proprio, il massimo che ci può essere. Mai un problema. Quando usciva sapevo dove era, con chi era.